La radio, boh, non lo so, la sento un po' strano, Giulio. Non presenti già, è la radio, un po' nasina, però è forte, molto forte. Scoppiato già. Ho copiato, stavo guardando a vedere, aspetta. Guarda così a vedere. Mi provo che mi metto quei cannocchiali. Così vado bene lo smitter, vai. Le orecchie più che cannocchiale, le orecchie, guarda a vedere se la radio ha migliorato in questa maniera qua, guarda. Così è pulita la radio, va bene, così va bene. Caba caba, va bene così allora. Adesso provo con un'altra antenna, vediamo un po' se esce, perché in macchina non mi funziona. Hai visto già uscendo, sta tanto che era provato dalla macchina. Ma adesso ho preso il libretto, voglio vedere quanto dà la CD Sigari, ma penso che sia 12 volts, ma io ho calcolato che fosse così. Ma Gianni, collegati alla batteria, no? La CD Sigari non va bene. Oh Luca, io secondo me, puoi fare come credi, secondo me dovresti abbassare un po' la radio, perché tu esci, alla volta esci, non dico distorto, però in una maniera incomprensibile a volte, perché è troppo alta la radio, è chiara quando parli più lentamente, ma quando, siccome parli tu abbastanza lento, e allora la tua radio a volte qua non la sento proprio pulitissima, la sento fortissima ma non chiarissima. Guarda un po' che ho abbassato a 2, prova, 1, 2, 3, prova. Adesso ha migliorato moltissimo, io poi se gli altri si dicono diversamente non so cosa dirti, però qui da me è così. La radio quando è troppo alta, è super modulata praticamente, non va bene, soprattutto per una persona come te e come me, tante volte che parliamo molto svelti e allora forse perché siamo vicini, non lo so da cosa dipende, so solo che alle volte le parole sono quasi incomprensibili. Ho capito, vabbè, l'ho passato, no? Così è ultima, così va benissimo, non bene, benissimo va così. Giulio, dimmi, Cadì. Sei disposto per caso a fare una prova che volevo provare in FM, come andavo? Sì, va bene, facciamolo, dai. Dammi solo un minuto perché io commuto per andare in FM. Comincia a andare e poi appena che ci sono ti chiamo io, ok? No, aspetti, cos'è il canale? Perché ho il telefono scarico, vai su canale 20 in FM. Va bene, facciamo così. Scusate, dai Gianni, scusa un attimo, Luca, vado un attimo in FM a fare questa prova. Ehi, a Luca, voglio un controllo anche da te, dai, come va di radio secondo te? Ma ci sono, ti sforzano ancora la bocca, prova, comunque è un bel forte, prova già. Guarda, l'ho spostata adesso, qua ce l'ho lontana, guarda come va. Perfetta, perfetta. Scappa, ma è forte la radio, vero? Ti confermava la radio, sì, è vero, verissimo, non vero. Gli ho cambiato la capsula, gli ho cambiato. Avevo una capsula di quelle verdi e gliel'ho messa. E va meglio, perché c'aveva la voce nasina questa modulazione qua, capito? La grande già, la grande. Ottimo per la truppa, me lo metto in stazione, là. Sì, però non trovi vicino alla bocca, se no esci tutto. Lo so, dai, vuole allontanata perché questa capsula è compressa, capito? E amplifica, dai, amplifica. Mi sto cercando le connessioni, vediamo un po' se le trovo, là, nel mubico. Va bene, già, mi lasciala così. È russo. Dai, trovo anche un 50 in mezzo a questi fogli, magari. Che bello. Adesso vado via Boggino, mi copro il biadesivo e me lo attacco all'altro apparecchio sopra. Cazzo, questa qua la posso prima, l'ho clonata, non va nuova, bastardi. Te l'hanno clonata? Mi fa, che mi avevo fregato 140 euro. No, fino a questa qua è quella che c'ho nel portafoglio. Guarda che te li tornano, mi Luca, devi fare la domanda alle poste e te li tornano. A Liliana li avevano tornati, gli hanno rubato 150 euro e li hanno bloccato dalle poste, li ha dato perché le avevano bloccate e le hanno bloccate perché le avevano rubati i soldi. E gli hanno ritornati i soldi, dopo un mese li hanno tornati, ha fatto una domanda e li hanno tornati. Ma ci abbiamo una misura, quanto pure la denuncia in questura. Ma facciamo perdere. Ciao a tutti, ciao. casa, dove sei? A Domo, Pax. Domo, sotto casa tua? No, sono a casa. Ah, pensavo che eri in macchina. No, negativo, Cla. No, sto provando quell'apparecchio da casa, a vedere come usciva. Là. Non esce bene. Meglio di uscire, già va bene. Cava, dai. La radio come cuffa? No, va bene. È abbastanza forte anche. Appena, ma... Potrebbe essere signora, appena magina, ma non... È abbastanza buona, fregati. Va bene così. Perché forse ce l'ho troppo attaccato alla bocca. Guarda, perché è una valvola, è una capsula che gli ho messo di quelle precompresse. Ah, va bene, già. Lascia tutto così e non c'è problema. Ottimo per la truppa. Quindi lo mettiamo in stazione, perché in macchina non va bene, lo so. E come mai? Fa tru tru tru tru e non si sente QRM, non si sente nulla di QRM. Probabilmente o è l'antenna che è partita, o non lo so cosa sia, o non ce la fa la faccia di sia. No, che cazzo, si fa tru tru tru, si abbassa la luce e fa così. Non è che si abbassa, però sembra che non ce la faccia, Adesso non lo so se sia, sto guardando, se la, può essere l'attacco a sindicale, sto guardando il libretto, adesso lo sfoglio e guardo se l'attacco a sindicale sia a 12 volt o a quanto. Non c'entra niente l'alimentazione Gianni, è certo che è a 12 volt, se l'amperaggio della sindicale che è basso, avrà 2-3 ampere, non di più, ma tutte le macchine sono così. No, un accendisigari puoi attaccare un telefono, puoi attaccare una cosettina che non assorbe, il baracchino assorbe di più, è normale che faccia così. I 12 volt sono 12 volt, capito? Però l'amperaggio è basso dell'accendisigari. Claudio, con l'altro apparato uscivo tranquillamente, con l'altro accendisigari andava benissimo. Già, di che macchina stai parlando? Sto parlando di macchine nuove, quelle elettroniche come la tua, lascia perdere quelle vecchie. Anche io nella 600 mettevo il VHF a 50 watt, che non c'entra niente, nell'Alfa non lo posso fare. Ah, abbiamo parlato l'altro giorno mi della macchina, con l'attacco a CD sigari, vero? Non sto parlando, l'altra macchina non ce l'aveva l'attacco a CD sigari, c'era fatto un impianto fatto bene. Strano, molto strano, quell'amperaggio della CD sigari è molto basso. Molto basso, sicuramente è quello lì, non lo so. Poi bisogna vedere che radio stavi provando l'altra volta, che radio stai provando adesso, l'amperaggio, e devi vedere tante cose. Sì, già rimane in occhi da tutti i dini, già rimane qua. Se non mi ce la metto nella busta di nuovo e abbandono l'idea. Perché l'altra volta con l'attacco a CD sigari stavi usando il portatile, giusto? Eia. Già, cazzo, cioè stai parlando di due pianeti diversi. Un portatile d'emergenza con una radio, quella minimo assorbirà per i watt che c'ha, assorbirà 7-8 ampere, 6 ampere, provetto, la accendi sigari già, vai tranquillo, perché se tu usi un'altra radio che è bassa di amperaggio non te lo fa quel difetto. Vabbè, sarà. Sarà Gianni, a futtidini che è così. Retta a me che è così, non c'è niente, né l'antenna né nulla, tu stavi provando un portatile, lo regge e va bene, un baracchino non te lo fa, perché rispetto a chiunque chiedi l'amperaggio degli accendi sigari sono molto bassi. Non si sente il QRM, capito? Secondo me è l'antenna, perché l'ha fatto anche col portatile, non usciva più, non si sentiva il QRM, poi sono tornato a casa e voi stavate parlando, non si sentivano le persone, capito? Quindi deve essere l'antenna, sicuramente. Ma quale antenna? Quella del portatile usi, quella a filo? Non ne ho altre, sì, quella lì. Già, allora, questo non sapevo, allora, può darsi sia l'antenna che è andata in corto, non lo so. Può darsi pure già che sia l'antenna che è andata in corto, ti fa quel difetto lì, però sappi che grandi cose la CD sigari non ne puoi attaccare, perché è pericoloso. Aspetta un attimino Cla, fai riprendere agli altri che ci sono, non so se ci sia Luca mi pare, avanti Luca. Mi sto cercando le connessioni del Mucrico, là, sono qua in ascolto. Ma che c'è anche Cuoco, ma c'è coso, Franco Califo, fra. Arrivano 9:10 qua, più alto del solito, fra. Franco è Tazzara, è Tazzara. Perché Cuoco, ma pure lui. Sì, beh, sono amico di Natali, c'è Natalino, sono col coma. Cercando questo cavo di connessione, di cosa? Del Mubico, vediamo. Perché ho procurato la capsula, vediamo un po', microfono originale. Oh, per vedere se va bene. Ehi, c'è una bella radiolina, quella l'ho avuta anch'io, in macchina. Già funziona. Sono tutte le buste palle del comune, questa sicuramente. Beh, c'è qualche 100 euro in mezzo. Ma sono le buste palle, che siamo adesso? Vediamo. 100 euro, crack. No, bonific ci sono. 258 euro. Sì. Era un po' un barbicchio di uno dusso, crack. Pare che si domandano. Poi vabbè, c'ho il CUD. E anch'io sono peggio di te, c'ho un manuale di radio che non ho più da anni, mi è rimasto il manuale dell'FT 1000 che mi era bruciato il fulmine, figurati, l'ho venduto a pezzi di cambio, mi sono etichettato dare il manuale, vabbè, non l'ho più cercato. Faccio un poco foglie e fogliettine, c'è. Vabbè, e Giulio dove è andato? Va giù, allora. Quasi tutte le cose, allora, in qui, Iden, sempre, i tramvi, ero sceso, con il GB, è in stato, dopo, eccetera, la vaiette, baracchino melegato, porta in fari, chi è avanti? A chi è Gianni, tu sei? A casa? Ti ascolto bene già, un po' basso di segnale, sì. Ecco dice Claudio, no, non ce la fa l'alimentazione lì. Qui arriva anche qua, mi Santiago 2 arrivi qua Gianni. Io ci sono da giudito già, se te lo sto dicendo, c'è l'alimentazione dell'accendi sigari, ha pochi ampere e non ce la fa ad alimentare la radio, non ce la fa. A me ti sento raramente, più di Santiago 2 non ti sento, ma tieni conto dove sei tu, dentro casa e dove sono io, quindi per me l'antenna non c'ha niente. Ma tu non mi accorgi a me, ti ho detto che è già successo a me, accendi sigari, non ce la fa ad alimentare la radio, automaticamente fa quel difetto, capito mi hai? Gappa. Gianni, lampade di dutto, una macchina a bulo, e allora non ti lamentare. Buonasera a tutti, eh. Andiamo, bubbo, ciao to. Ciao squalo, piragna, sì. A me sta dicendo? Sì, io sono uno squalo, un piragna. Uno squalo, ciao to, buonasera, ben ascoltato. No, l'antenna Gianni, non c'ha niente, vai perfettamente bene. Perché altrimenti qua non saresti arrivato. Ripeto, Santiago 2, non ho un filo di QRM, radio 5, perfetto, quindi l'antenna non va nuda. E l'attacco alla CD sigari che non va bene, ok? Ti devi trovare un'altra soluzione. Prova a attaccarla alla batteria. Santiago 3, hai aumentato il segnale, hai visto? Quindi cosa vuoi? Fa l'attacco alla batteria. Ma no, poli nuda, lei retta a me Gianni. Dice, ma tenendo un gabbo, tanto non c'è nessuno, lascia perdere. Goditi la macchina così, è nuova, non stare a fare casino. Che quella è tutta centralizzata, basta un errore, gas, fai partire qualche centralina ed è un casino, affutti dinni, lascia perdere, c'è stata una vita con la radio in macchina, allora basta, boh, finiti i giochi, gappa, c'è un break, avanti break, qua sei molto basso, ciao Nicola, mi sembravi uno da fuori, Santiago 5, cosa ci stai combinando? No, tu sei ancora fuori. La soluzione sai qual è? Metterti l'antenna e usare la radio da dentro casa. Ecco. Gappa, va bene, registrato il break. Vabbè, comunque tu sei sparito, non abbiamo capito se questa antenna l'hai piazzata, non lo so, vabbè. Ci farai sapere, comunque sei basso qua, è segnale 5, radio 3, avanti Black Riccardo. Ok, ciao Nicola, se mi senti, io non ti sento, se ho il QRM alto, comunque non ti sento, vediamo se ti senti. Ah, comunque, grazie Claudio per avermi fatto entrare. Figurati Riccardo, non c'è problema. Hai visto il Riccardino, Nicola, ti ha superato? Ha montato un'antenna spettacolare, arriva da tutte le parti, qua è 9 più 15, radio Super 5, tu sei ancora con questo portatile, ma stai andando troppo piano, bisogna accelerare i tempi, capito? Bisogna accelerare, adesso sei sceso ancora di più di segnale, avanti Lucarie. E continuate voi, dai, ho trovato anche il libretto della moto, non lo si prende, me l'ho rubato. Ah, quell'altra, ahia. Torresquadro, cosa ci racconti? Cosa vuoi che ti racconti? Sto guardando qualche dipolo qua, sul tablet. Qualche dipolo? Cosa vuoi morire? Dipolo è un'altra gabbituria. Ne devo cavare un antennino minorito che fa in Olanda. Vado ad operare il cavo. Oh, mi sa, questa qua, 40-80 metri. 2 metri e 30 lunghi. 40-80. 80 sono ben lunghi i bracci, dove li metti lì? Io ce l'ho di poco. Vabbè, il mio è full size. È 35 metri lungo, fate un conto. Perciò lì non ci sta il dipolo di 80 metri. Ma perché non ti monti una verticale multibanda? 5 bande, se devi ascoltare, hai risolto il problema. Quasi, ci sto pensando a mettermi una cosa del genere. Ecco, scusa, c'è una multibanda e sono sicuro che manco quella usi più, perché se ti metti una multibanda e c'hai l'accordatore, fai 10, 15, 20, 40, 80, in 10 metri usi l'accordatore ed esci con la verticale multibanda. Se no quella la lasci per la 27, quel cavo che c'hai libero metti una multibanda, non costano chissà quanto, ce ne sono tante, certo non devi andare a comprare quelle di grande cosa, come PKW, ne fanno un sacco, ma ce ne sono che costano poco, ce ne sono. Ti metti una multibanda e hai risolto il problema, verticale, senza radiale o con dei radialini piccolini, c'ha le sue bobine e ti fa di tutto, dall'A alla Z, e ne vuoi tutto un'altra gabbituria, capito, antennini e contro antennini. No, c'ho quella della 27 e quell'altra per il PMR, basta, e un altro che mi ha fatto Luca che da voi non si va nuda. Più che altro c'è l'attacco a quella lì, già c'è il palo per metterne un'altra a Puglia, solo che mi devo obbligare l'antenna e l'accordatore. Se usi la multibanda l'accordatore ci vuole, anche perché tu c'hai quella radio simile a questa però senza accordatore. Se avessi avuto un 440 c'è l'accordatore incorporato, capito? Allora risolvi il problema, se no ci vuole accordatore, a meno che, ti ripeto, non lasci quella che c'hai per la 27 e a fianco al posto di qualche altra antenna le metti quella lì, intanto non sono pesanti quelle, sono dei tubi leggerissimi e c'hai un'antenna 5 bande che ti fa tutto per ascoltare. Al posto per un'altra antenna già ce l'ho, e a Puglia attacco il tubo da 2 metri alla piazza sopra, già ci sta un'altra antenna. E allora faccio un pensierino a te, che l'unica cosa pulita, ordinata, perché le filari lì, quando metti le filari, se metti un dipolo multibanda è grande, devi andare da una punta all'altra del palazzo, non so se ti convieni, perché stai andando sul tetto degli altri, capito? Non sono piccoli dipoli, sono molto grandi, io ho dovuto piegare quello degli 80 metri perché non ci sta nel mio, va giù quasi 30 metri di baratto lungo, e non ci sta, figurati tu, ho dovuto fare delle zette in punta per farcelo stare. Quindi pensaci, metti una multibanda 10, 15, 20, 40 e 80 e tu sei arrivato a Dama. Forse c'è ragione. Sì, gira il vostro gusci foto. Adesso vedo come arriva un po' il caldo, vedo cosa succede. Intanto organizzati, vedi di trovare qualcosa. ci sono quei siti, digita PKW, antenne PK verticali PKW, W, antenne verticali PKW, multibanda, ci scrivi e guardi che tipi fanno, quanto costano, tu guardi magari in altri siti, anche sempre digitando antenne verticali multibanda e vedi cosa ti dà, così ti prendi un po' l'idea di cosa vai incontro, insomma, perché non è che costano poco, sono sempre oltre i 200 euro le antenne multibanda, ma dico quelle stracco baratto, se no arrivano anche a 400-500 euro. Sì, è così, penso che abbia dei nonni. Io ti consiglio, però vedi tu, la tasca è la tua, io per ascoltare non li spenderei tutti quei soldi, capito? Se c'hai uno scopo ben preciso, allora sì, però preferisco ascoltare con la mantova, per dire, no, con la tua antenna se vuoi ascoltare, mi vuoi un commutatore, già ce l'hai, commutatore, commuto l'HF, ascolto con la mantova, giusto per rendermi l'idea, per ascoltare, ma e quindi 300-400 euro per un'antenna che poi vado ad usare solo in ricezione, è un po' pesante. Infatti, 400 euro sono pesanti, poi ti peso un pochetto di peso in muro. Poi, lascia stare, in questo periodo poi che siamo stati un po' fermi, le entrate sono state poche, le uscite un bel, le entrate poche. Va bene, anche se siamo pensionati, però mi lascio sempre bogli, capito? Va bene, allora, Riccardino, riprendi e fai girare, dai. Ok, Claudio, grazie. Comunque ti volevo chiedere, lo conosci cosa ne pensi del Summer Camp FC78? L'ho avuto. Ma stai attento che c'è una serie che è a scala meccanica, La scala meccanica non è facile da usare. Il 78 cos'è? L'FT78B? No, FT78 normale. Ma c'hai la foto, hai visto se c'è il frequenzimetro o che cosa? Sì, l'ho vista la foto. Sì, davanti. Ma c'è il frequenzimetro perché c'è un modello che è scala meccanica, senza frequenzimetro, capito? La scala meccanica è un po' difficile da usare. No, c'è il frequenzimetro. No, se col frequenzimetro già va bene, è bella. L'ho avuta io, però ho avuto il B, 78B, capito? Poi l'FT250B, lo stesso, l'FT101, il 102, ne ho avuto tanti di quella categoria lì. Ma perché stai continuando a prendere queste radio? E non ti prendi una magari un po' più recente? E poi questo è il WFO. Certo, tutti hanno il WFO. Ho capito, no, come hai detto, mi sono finita, vabbè, ma poi vintage ti stufa. Anch'io quando ho iniziato avevo tutto vintage, poi mi sono stufato, perché mancano delle cose, se uno si sposta in altre frequenze tu non ce l'hai, perché i vintage sono sempre limitati, capito? E quindi alla fine poi ti stufi e vai a fare la collezione come ho fatto io e come fanno tanti altri. Va bene, sì, comunque è una bella radio l'FT78, già va bene. A me piace molto più l'FT250, guarda, digita FT250, è un 0,30 però, quindi devi stare attento dove vai, perché secondo dove vai non ci puoi parlare. Già lo so. Non sconfinare oltre a 27, se no ti metti nei guai, Ricca, fai da bravo. Prenditi radio che puoi divertirti, però stando sempre nei limiti, poi se hai voglia di crescere, di fare, te la prendi, sta benedetta licenza e patente da radioamatore e puoi usare tutto quello che ti piace. Perché ho saputo che è anche più facile di fare radioamatore che fare radioamatore. No, non c'è più GW, Riccardo, c'è solo un esame unico. Quando l'ho data io, nel 1993, c'era ancora il GW, poi l'hanno eliminato. Adesso è un'unica licenza, capito? E l'esame è a quiz, domanda-risposta. Quindi è molto più facile di quando l'ho dato io, capito? Perciò basta che studi un pochino, sei intelligente, bravo a scuola, ti prepari e li dai gli esami, Riccardo, capito? Non è un problema, ci puoi andare tranquillamente. Ho capito, sì, perché so che era difficile perché c'erano anche tipo come raccogliere, fare delle frasi, come si fa la frequenza dove devi provare a parlare con il CV doppio. No, non esiste più il CV, assolutamente, non ti preoccupare, è un esame normale come quello che fai a scuola, capito? A quiz, no? Quindi basta che ti prepari e lo dai, così puoi avere tutte le radio che vuoi, puoi usare tutto quello che ti piace, detenzione ed uso, e poi ti puoi fare, tu che sei appassionato di collegamenti, puoi fare collegamenti di ex, puoi fare tutto. Io vedi, ti faccio, allora questo è la 27, ti faccio sentire, vedi, vedi come mi arrivano a me, aspetta, vediamo se c'è qualcun altro. C'è un sacco di QRM. Aspetta. Questi parlano fuori dal continente, capito? Arrivano come arrivi tu, uguale, preciso, identico. Beato te, ricca, ci vogliono le radio, le antenne, ricordati che la cosa essenziale per poter fare l'animatore sono le antenne. La radio basta una qualsiasi radio, però se non hai le antenne non vai da nessuna parte. Quindi la prima cosa, se c'hai questo hobby, che spero vai avanti, le antenne. Quando hai le antenne hai tutto, ricca, capito? Vediamo un po' se c'è qualcun altro qua. Eia? Sì, non c'è più, vai, registrato. Ma di quale radio stai parlando? Scusate un secondo e poi vi faccio entrare. Di quale radio stai parlando, Gianni? Il 50B non è ricevitore. E il selettore come ce l'hai, il selettore del power? Com'è? Al massimo, a zero? Perché se il selettore del power è al massimo, allora la valvola è andata, non ne hai di valvole per poter trasmettere già. Quello è il selettore del carrier, scusa, ma se il carrier ce l'hai spento, il carrier è la potenza di quella radio, se tu non giri il carrier non te ne dà potenza. Sì, c'è la scheda aggiuntiva quando fai ricevitore e trasmettitore separato, se non c'hai la scheda aggiuntiva non ne hai di modulazione. È un casino, già te l'avevo detto, io infatti non l'ho mai completata quella linea perché avevo paura che succedesse una cosa del genere, capito? Devi controllare bene, innanzitutto vedere se arriva la potenza dal ricevitore al trasmettitore, se il cavo è collegato bene e se le valvole sono buone. Allora puoi iniziare a tirarne i piedi, ma così non ti conviene perché non va, capito, non va. Aspetta un attimo, già che faccio entrare il break, avanti, avanti il break, e vabbè, niente, riprendi Riccardo, fai girare tu, dai. Riprendo io, comunque voglio che la prossima, perché ne avevo tutto uno, che lo stavo dando, e ti volevo chiedere come era quel campo, e vabbè, cambio per te il foglio e poi farei girare per gli altri. Sì, Riccardo, va bene, è una bella radio, te l'ho detto. Sono delle belle radio, vanno benissimo, alla grande, sono vintage, sono molto molto robuste quella serie lì. Perché prima di diventare Yaesu erano Sommerkamp, capito? Poi la Sommerkamp ha ceduto il marchio alla Jaeger, è nata la Jaeger, però prima la casa costruttrice era la Sommerkamp, come quella della Kenwood era la Trio, né più né meno. Vediamo, aspettate un secondo, voglio vedere chi ci è rimasto qua, a parte Luca che ci è rimasto, Nicola, poi c'è qualche un altro, Giulio ci sei? Sì, sì, ci sono, ciao Claudio, e ciao anche a Gianni. Gianni, ti devo dire per l'ennesima volta, qui non arrivi, è inutile che tu entri in frequenza e parli solo con quelli della collina, devi farti sentire anche dal Sassa di Centro, tu arrivi malissimo qua, anzi per niente in questo momento, per cui non fai altro che interrompere il quasio di Sassari. Noi ci accettiamo volentieri, per carità, ci manca il braccio, ma provvedi a mettere questa benedetta antenna come si deve, una volta per tutti, che sono 40 anni e oltre che te lo sto dicendo e non l'hai mai fatto, che diamine, ragazzi. Oh, Madonna Santa, ragazzi. Vabbè, là. Cosa vuoi che ti dica qua? Non lo sento, è utile stare 2 ore davanti alla radio se poi non lo sento. Non può parlare solo con te o con Roberto che siete in alto, è la problema anche con me e con gli altri che sono in basso, compresa ad esempio Luca e tanti altri. Non lo so, boh, vabbè, dai, riprendi qua. Sì, ho lasciato un attimo nel bianco. Va bene, se non fa questi lavori, boh. Devi mandare Riccardo o qualcuno che ha il numero di Riccardo, devi mandare il numero di telefono, così ti metto su WhatsApp e ti faccio una foto di radio, la differenza ti faccio capire tra le radio HF e quelle dei baracchini vintage, Riccardo, capito? Quando vuoi. Lo dico a Roberto, mi faccio il tuo numero, così posso mandarti qualche foto di qualcosa da poterti così indicare, eh? Ok, c'è anche Nicola, mi pare, Nicola di Bari, non c'è più, non è Squalo. Hello, sono qua, sto ascoltando, mi faccio di ascoltarvi anche. Al signor Giulio, che non si arrabbi, che se poi se gli ingrossa la gola e non può più parlare. Catta, fatti arrabbiare. Ma non mi sto arrabbiando, ci mancherebbe altro, intanto ti saluto. Ma non è possibile che si possa fare equazione in questo modo. Non ascolta, non sono in alto. Qui, da dove sono io, è nella zona di Sassari, l'ascoltiamo in maniera assolutamente bassissima, proprio è impossibile. Poi tra l'altro lui che fa dei passaggi lunghissimi, noi non possiamo stare un quarto d'ora davanti alla radio aspettando che lui svetta per poi rilanciarci magari il microfono o Claudio o Roberto o Antonello, ad esempio Pompugno che sono in alto, loro lo sentono bene. Lui deve pensare a tirare su un'antenna che è solo appena 20 km, nemmeno da Sassari, e dunque è fattibilissimo il discorso, anche perché Muros è più alto di Sassari sopra il livello del mare, perciò non è vero la ragione per cui non si debba far sentire, questo che non riesco a capire, boh, cosa vuoi che ti dica? Tutto lì, non è che mi sto arrabbiando, sono da fastidio, e bisogna ammetterlo, perché non sono il solo che non lo sente. E mi dispiace, lo sentivo, mi dispiace veramente, però purtroppo la situazione è questa. Avanti, Tore. Io faccio così, se li ascolto, se non li ascolto gli dico 0-0-0. Oh, basta così. Riprendi. Ma avano mammento birinnomo. Ehi, riprendo io. Ma lui c'è la collina di Scala di Ciocca che lo copre. Sicuramente. Deve fare qualcosa. Però, vabbè. Lo so, Giulio. Lo so, anche a me dà fastidio quando io non sento. C'era un periodo che io non sentivo Riccardo, perché non lo sentivo, oppure arrivava, però era in mezzo sempre al QRM e non riuscivo. Adesso fortunatamente ha un bellissimo segnale, il problema è risolto, arriva fortissimo, va bene e non ci sono problemi, capito? Però quando uno parla e parla solo con due persone, gli altri rimangono fermi, è un casino, lo so. Ho pienamente ragione, molto bene. Avanti Luca, chi c'era? Boh, non faccio un bacio l'orientamento blu io. Fuji Q! Yeah. Ciao ragazzi, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, vi seguivo da un pezzo, dai. Niente, Claudio, io in fase di rientro, vi saluto tutti, continuate la vostra propaganda. Buon fine settimana a tutti, Giulio, Claudio e via dicendo. Ciao Gatrami, ben entrato, buonasera, cordialità e un abbraccio. Ehi, ehi, rientra dimmi. Il freddo oggi, va bene, ti faccio salutare da Giulio, vai Giulio. Ciao Luciano, ben ascoltato, sempre la grande. Bene, bene, bene. C'è anche Robertino in frequenza. Vediamo, te lo mando avanti, dai. Un ragazzo che si è attrezzato da poco con un'antenna nuova. Vai Robertino per Luciano. Ciao Luciano, ben sentito. Qui Robertino da questa parte, come dice Giulio. Caparrogero Robertino, vai, anche se ti ho sentito un po' piccolino, comunque ti ho capito. Va bene, vi lascio, buon fine settimana a tutti. A lunedì se Dio vuole, carabinieri. Ciao ciao Claudio. Ciao Luciano, ciao. L'ingresso di Eugenio è una cosa indimenticabile per tutti. Ma cosa è vero, che hai gente che ti chiama, che hai già modulato a Luciano? Allucinante, sì, cazzo. Va bene, avanti Eugenio, dai, riprendi e fai girare. Ci sono io, Giulio, Tore Squalo, Riccardino, poi c'è Gianni da Muro, se che non arriva da qui alla Landriga, vai. E anche te. E Gianni doppio ru. Ok, saluto a tutti, tante cose belle, a tutti, ciao, sono qua, buonasera. Bravo Pittibo, così mi piace, ecco, questo è l'ingresso che ci piace. È entrato cantende, ma cribato a Luciano, la mazza che tiene varia. Avanti Gianni, fai girare tu, vai. Ehi, allora, buonasera anche a te Eugenio, ben sentito. Speriamo un po', Gianni Ramuro, vediamo se ti sento io, dai. Siamo passati. Almeno ti mettessi un lineare per un altro. Ehi, a Gianni, dai. Io già ti sento, Santiago 6, Radio 5, dai. Va bene qua, però non sono tutti che ti sentono. Avanti Giulio, riprendi tu caro. Ciao Gianni, ben entrato. Sì. Gianni di Muro, metti almeno un lineare, fatti sentire, non ce ne frega niente del segnale basso, l'interessante è che arrivi in radio, quello che importa, perché se no si crea un caos in frequenza, e non è che te lo dico così per il gusto di dirtelo, ci mancherebbe altro, tu lo sai benissimo, noi abbiamo avuto tantissimi contatti anche telefonici, però la situazione purtroppo è quella che è, e non si può andare avanti in questo modo, soprattutto, ripeto, tu hai il modo di parlare che fai dei passaggi lunghissimi, ma non è questo che dà fastidio, questo non mi dà fastidio, non è una maniera più assoluta, mi dà fastidio che non riesco a sentirti, perché sfunquassi tutto il quadro, ecco qual è il discorso. Ma non mi sto arrabbiando, te lo sto dicendo per l'ennesima volta, provvedi, possibile che non riesci a farti sentire, boh, non lo so. Va bene, dai, avanti tale quadro. Ah, io lo sento su 5 e 6 di segnale, la radio lo sento benissimo. Ma tu sei sopra, il problema è nella bassa valle dove c'è Giulio, verso i punti, San Giovanni, anche per Porto Torres sicuramente, adesso sentiamo Eugenia, vedete se lo sente. Qua non fa testo dove sono io, perché arriva anche forte, però io mi metto le panne di chi non lo sente, lui appunto che, come dice Giulio, fa passaggi lunghi, parla appunto di tante cose eccetera, e ci sono dei problemi, tutto qua, non è che Giulio sta dicendo cose insensate, sta dicendo la pura verità. Vediamo poi Eugenio, tu lo ascolti Muros, sì, bravo Muros, se ne ascolti. senti o non lo senti oggi? Sì, io lo sento borbottare, è quasi incomprensibile, però lo sento quando stacca, quando parla, dai. Non è come Giulio, anche Giulio sente borbottare, ma non capisce, non è che si può fare un questio borbottando, il questio si fa parlando e cercando di avere domande e risposta, non è così che funziona, quindi non sono cose insensate, ripeto, sono cose giustissime le affermazioni di Giulio. Come ho sempre detto, quando si entra in radio si entra per farsi sentire, se uno non arriva da qui alla Landriga allora è un casino per chi non lo sente, per chi sente problemi non ce n'è, quindi il discorso è quello. Va bene, avanti Enrica. Ok, saluto a Gianni Capri 2, è entrato e al signore di Porto Torres, più forte di Porto Torres. Il più forte di Porto Torres, sai come si chiama quello, il più forte di Porto Torres? Tu chiamalo Pitbull. E a chi ho finito, Busundorra? Quello si chiama Pitbull, capito? Pitbull, lui a me mi chiama Chihuahua, capito? La differenza, no? Lui è il Pitbull, io sono il Chihuahua, capito? Eh? A 60 anni che dovevo sentire, Riccardi? C'è un break avanti? Non è possibile, non è possibile. Ciao Daniele, un abbraccio, ben riascoltato dopo tanto. Da Oristano, è un secolo che non ti ascolto Daniel, da Oristano, porca miseria, ti posso solo salutare a nome di tutti perché intanto sono sicuro al 100% che non ti ha sentito nessuno Daniel, Daniel da Oristano, Daniel da Oristano vi saluta tutti ma sente purtroppo solo me. Non so che cosa dirvi, non è facile arrivare a Rizzano, però Daniel sente solo a me. Sì, io lo sento, Santiago 8. Anche io lo sento, passo a un passo non lo so. Sì, Daniel, QSL, arrivi Santiago 5, immaginati tu, pensavo fossi qualcuno in zona, Santiago 5, Radio Super 5, Daniel, poi mi dai un controllo. Adesso io ti mando avanti uno per uno perché dicono che appunto ti sentono, vediamo se tu senti qualcuno da Sassari. Iniziamo con Gianni Doppio Rum, avanti. Ciao Daniel, ciao, ben sentito, non so se tu mi ascolti, io ti sento, ma non riesco a capire bene cosa dici, sento le parole ma non riesco a capire cosa dici, non so se tu mi stai ascoltando, ti saluto cordialmente. No, senti Gianni, ti ha chiesto chi sei, il tuo nominativo. Arrivi appello di QRM con una radio 2, ok? Appello di QRM con una radio 2. Comunque si chiama Gianni Doppio Rum, Gianni Doppio Rum, ok? Adesso ti mando avanti Giulio Rollaro che è nella piana degli punti, vediamo se arriva lì a Oristano da te Manuel. Avanti Giulio. No, non conosce proprio nemmeno, è assurdo, no? So che è con 26 gomiti, ma nemmeno per sogno ancora, non è nemmeno il caso di provarci. Prova! Cosa provi? Tanto non ci arrivo. Attento Manuel, mi ascolti, Giulio da Sassari, sarebbe un miracolo, guarda, un miracolo. No, Manuel, a Giulio non l'hai sentito per niente. Sì, Claudio Sparviero, Manuel, Claudio Sparviero, ci siamo sentiti altre volte. Sempre Claudio Sparviero, Manuel. Ti passo un ragazzino qua da Sassari, vediamo un po', c'è una bella zona, Però sono convinto che non riesce a spuntarla lì verso la zona di Oristano. Riccardo, vedi un po', questi sono dei bellissimi QSO a distanza che valgono appunto la differenza di zona, non tanto di radio, di potenza, io sto andando con 10 watt, non sto andando con 20 watt modulati, però vale appunto la differenza delle zone. Vedi un po' Riccardo se senti Oristano, vai. Comunque lo saluto, sicuramente non mi sente al 100%, tanto perché non arrivo a Ostia, non arrivo a Ostia, arrivo a Oristano. Manuel, hai sentito Riccardino da Sassari? Che ricordo quanto sta usando? Aspetta. Sì, il segnale che mi ha dato a me è, mi ha detto tra l'8 e il 9. Perfetto, Daniel, si scusa Manuel, ti ho chiamato, perché c'è anche Manuel di Oristano, che è mio collega radioamatore, infatti all'inizio pensavo fosse lui, All'inizio pensavo fosse lui, ok. Sì. sì, quindi vado da 8 a 9, sì, io sto usando il solito radio, non so se mi hai mai sentito, il TS440 della Kenwood, infatti sono 20 di portante e circa 35-40 modulati. Ok, il tuo segnale, ripeto, 5 con picchi quasi a 6, ma la radio è fortissima, bella, molto molto chiara, arrivi Daniele. Mi chiedevano qua da Sassari quanti watt stai usando. Sì, quindi Gianni, sto usando circa 300 watt. Sì, Daniele, la mia posizione è la punta di Scala di Ciocca praticamente, via Milano Alta, via Milano Alta, non so se quando tu appunto arrivi da Cagliari che fai Scala di Ciocca, quella zona di Alta, quella è la mia zona, Daniel, ok? Mi dispiace che c'è un QSO che non ti senta nessuno, porca miseria, perché appunto anche gli altri avevano piacere di salutarti. Comunque ti saluta Giulio Dollaro, Gianni Doppio Rum, che mi ha detto lo senti proprio basso, basso, basso, ma non riesce a capire ciò che dice. Poi c'è Riccardino, c'è Eugenio, insomma ti mando un saluto circolare da tutta la ruota del canale 10, Daniel, ok? KQSL Daniele, io ti ringrazio per essere entrato, ti saluto appunto da tutto il gruppo qua di Sassari, Nord e Sardegna, visto che tu sei un po' più a sud. Un abbraccio grande, grazie per essere entrato a salutarci, e spero insomma in altre occasioni migliori per quanto riguarda i colleghi qua di Sassari riescano ad ascoltarti meglio, ecco. Un abbraccio grande da tutto il gruppo, da me, da Claudio, da Giulio, da Gianni, da Riccardo, da Eugenio, Daniel, ok? Ti ripasso il cambio e ti auguro una buona serata, ciao Daniel. Sì, sì, perfetto, l'ho notato Daniel, perfetto, non mancherà l'occasione, ok? Ciao Daniel, contraccambiato l'abbraccio di tutti e tutti i componenti del 10, di tutti gli amici di Sassari. Un abbraccio grande, grazie per essere entrato Daniel, ciao, a presto. Allora, vi saluto a tutti, Giulio ti ho mandato appunto, non si sa mai, che sembrava che stessi parlando da solo, ti ho mandato come arriva Daniel su WhatsApp. Ok, il cambio per te Giulio e fai girare. Ciao Daniel, di nuovo un abbraccio. Ciao, ma noi ce ne siamo accorti, non stavi parlando da solo perché si sentiva, solo che non si capivano le parole. Gianni, hai rilanciato me Gianni. Sì, sì, invece ci mancherebbe, cosa facciamo? I bambini, no, lascia perdere, non ci sono dubbi che tu possa parlare con Orisano, capita, ci mancherebbe. Va bene, molto bene, anzi sono contento che hai fatto quel collegamento. Vedi, quando si tratta di fare un collegamento con io a lunga distanza, che riesci a sentire, va bene, ma se parliamo di 15 km, 20 km nemmeno, come può essere stata di Comulos, è una cosa ridicola che non si riesce a sentire. Tutto io, quello che intendo io. Gianni lo stesso dice che sentiva il bisbiglio, ma non lo sentivi e basta, non arrivi, stesso discorso, non cambia niente. Avanti Gianni. Vabbè, lui è in alto, è su un grattacielo, già lo grido. No, io sentivo che parlava, però a volte capivo le parole, a volte non le capivo, dico la verità. Era basso basso, era un Santiago di uno proprio, a livello di QRM, dai. Non posso dire il contrario. A volte la zona anche che magari è più favorevole, più in alto e tutto quanto. Non ci sono paragoni, vi ho già detto. Non è per presunzione, ma quando parliamo di arrivo più forte io dentro Sassari o arrivi più forte tu perché c'è il sorso davanti, non ha nessun significato. Il problema è che da qua, dalla mia posizione, io copro tutto il nord, il centro e il sud di Sardegna, non c'è niente da fare. Cioè, mi ha dato 5,8, 5,9 con 20 watt e 40 watt modulati. Allora se metto a attacco l'amplificatore o aumento la potenza del 440, cosa succede? Non sono male, perché gliel'ho mandato in diretta a Giulio quello che stava dicendo. Già, è così, cioè io mi ricordo sempre la volta che mi telefonò Mario Babbo Natale, già vivo e vegeto, che stavano rientrando da Cagliari, nella piana di Campeda, aveva Costantino Sanna dietro, quello degli autobotti, uno dietro l'altro, mi ha telefonato. sul canale 5 e mi telefonò e mi disse: vai dimmi al canale 5, io non sento Costantino che ce l'ho a 50 metri dietro di me. È una cosa pazzesca questa zona, per tutto coprio un po' di problemi, ma riesco a farmi sentire abbastanza bene solo nella zona verso il mare, ma del mare praticamente da Castelsardo in poi. Però a Santa Teresa ci arrivo lo stesso in diretta, non ci sono problemi, capito? Queste sono le cose necessarie, giustamente come dice Giulio. Cioè io ho fatto entrare il break, Giulio, non è che stavo facendo collegamenti, io ho fatto entrare un break e mi sono accorto che era la ristampa. Però come dice Giulio, cioè uno è fare un collegamento a 120 km di distanza in diretta così nel canale 10, uno è non sentirsi da Sassari a Muros, che sono 15 km, cioè è assurdo, capisci? Quindi nettamente alla grande ciò che ha detto Giulio, senza nessuna insomma, senza offendere nessuno, ma è così, la realtà è quella. Avanti Eugenio. No, io come vi stavo sentivo bene, Santiago 8, 9, molte volte a 7, però sentivo bene. E forse tu c'hai 7, devi andare a bere. Bella questa battuta, come risposta è bella. Io dico questo, tu sei Sandro, ad esempio, prendiamo Sandro Tigre, che già grazie a Dio è vivo al Veneto, quando capita l'occasione, chiedigli a Sandro se io ho parlato con lui in Corsica addirittura, tanto per fare un esempio, possibile che a 200 km di distanza riesco a parlare e a sentire e non riesco a sentire a 15 km? È questo che mi dà fastidio, ma è possibile. Addirittura col PMR, ho parlato con Sandro in Corsica col PMR, per dirlo, tutto quello che vuoi, lui era in alto, tutto quello che vuoi, ma ci sono io che sono in basso sempre, no? Poi non riesco a capire un'altra cosa, che questo è un controsenso che mi attiva continuamente. È possibile che lui a me mi sente e io a lui non lo sento? Come te lo spieghi questo qua? Io te lo spiego subito, perché tu a lui arrivi, perché essendo in basso riesci a irradiare meglio, riesci a passare la collinetta tu di Scalaiciocca, Giulio, tranquillo, perché si vede. Lui, dove è posizionata la sua antenna, non è molto in alto, perché Muros sì, come hai detto tu, è alto, ma lui è in piazza, nella zona bassa di Muros, capito? E l'antenna è talmente bassa che è un metro e mezzo dal piano del tetto, delle tegole, non ce la fa, deve su quell'antenna, deve lavorare almeno a 7-8 metri di altezza, ok, ben ancorata e ben messa. Allora probabilmente ti arriva anche a te, perché a Massimiliano ad esempio gli arriva basso, ma gli arriva, Massimiliano arriva lo stesso, capito? Però avete una zona diversa, Massimiliano è proprio nella piana, proprio in mezzo lì dove c'è Walter, che va bene. Sì, ma mi ricordo perfettamente, c'ero anche io, se ti ricordi, quando stavi parlando con Sandro che era su in Corsica, tranquillo, io con Sandro ho parlato dal furgone qua in 27 nel canale 10, non in PMR, proprio era su nella zona alta di Bellevue, e ci siamo sentiti nel canale 10, mentre con te si è sentito il PMR. Sono cose normali, perché le zone ce lo permettono, però purtroppo quando succede così, che a poca distanza non ci si sente, è una rottura di scatole sicuramente, ok? Avanti Riccardi. Ok, vado avanti. Come ha detto ieri o oggi, non mi ricordo, non arrivava oggi, sicuramente non arrivavo neanche qui. Vabbè, ma sono cose che possono anche succedere. Lì vicino a te abitava un periodo natalino, arrivava da tutte le parti, perché ha portato sull'antenna molto alta e andava bene. È sempre una questione di posizionamento d'antenna, eccetera, capito? Io non mi posso lamentare, perché ripeto, copro tutto, nord, centro e sud di Sardegna. e quindi non ho grossi problemi, però quando ci sono dei problemi di differenza appunto di zone, è chiaro che iniziano le difficoltà, perché è troppo bello, io arrivo più forte di te, come te la farì Marco Condor con Luca, siete attaccati dove vuoi andare, e quello non è un discorso di fare prove, le prove si fanno come Giulio mi insegna a lunga distanza, e a lunga distanza ho sempre detto che nessuno da Sassari fa quello che faccio io da qua, ma senza presunzione, perché la zona è talmente alta e aperta che non ha ostacoli, a me non mi ostacola nessuno, a me l'unico ostacolo che io posso avere sono gli uccelli, ma palazzi io non ne ho, non ho 360 gradi tutto libero, è chiaro Riccardo che arrivo in quelle condizioni, capito? Avanti, oggi riprendi, fai girare per doppio route. Ehi, anch'io qua non ho problemi per cui riporto a Torres. Va bene, già li riprendi. Claudio, tu puoi mettere l'antenna anche senza palo, intanto l'altezza ce l'hai al palazzo, ma non c'è problema. Se vuoi pure 5 cm di palo, intanto puoi entrare dentro l'antenna e basta, tutto lì. E il fatto è quello, che c'è l'altezza del palazzo e c'è tutto libero, come hai detto tu, a destra manca. Ma infatti se tu passi sotto casa io la manta va si vede perché è l'autostrada, adesso appena arriva il tempo buono da lì la tolgo e la metto nel lato dove ho tolto le direttive, perché l'ho spostata lì perché quando giravo la tre elementi mi toccava la mantova e quindi l'ho dovuta allontanare, ma adesso me la rimetto dov'era e la tiro su come era prima. Tu immaginati che se guardi bene ci sono 2 metri di palo attaccati al muro, che quelle sono di sostegno, e 2 metri di palo del telescopico, io non c'ho altro, non è che l'antenna è a 7, 8 metri, 10 metri, con 45 metri di palazzo cosa devo mettere, ancora tubi, cosa ne vai? Non ha sostegno, non ha niente, c'è un buon ancoraggio di staffe perché è chiaro che le staffe comandano tutto, non c'ho tiranti, non c'ho niente, ma c'è 2 metri di palo attaccato al muro come sostegno e gli altri 2 metri che escono, quindi fai 2 metri e mezzo di tubo, però l'antenna irradia bene perché non ha niente che la ostacola, capito? Vai, Marco, giù. Sì, beh, certo, lì è tutto libero, arriva dappertutto, ci mancherebbe altro, lo sappiamo benissimo. Ecco, tu sei in alto e arrivi anche nelle parti basse, magari con meno segnale, però ci arrivi sempre. Il discorso è sempre quello, comunque non è vero che Massimiliano lo sente così tanto bene, perché basta che ci sia appena il QRM, tante volte anche Massimiliano ci siamo sentiti e non lo sente, l'ha detto anche lui chiaramente, non c'è niente da fare, basta che ci sia un po' di QRM che nemmeno Massimiliano riesce a sentirlo, nonostante che ha una posizione un pochino migliore della mia, come hai detto tu, che c'è tutta la pianura lì e tutto aperto. Io vado avanti con anche le case, ovvio, per cui il discorso è sempre quello. Ma basta che si metta un lineare, basta che si metta un lineareto, anche di 140, 150 watt, e arriva tranquillamente. Io non è che pretendo che arrivi Santiago Roma, ma che me ne frega, c'è gente che arrivi del radio, basta, può arrivare anche Santiago 2, e se ti accetto quelli di Albero, arrivano Santiago 2, 3, 4, eppure lo sento bene nel radio, anche se basta, ma lo sento bene, chiaro, ci posso parlare. E lui, vecchio, non lo so, e mi dispiace, perché Gianni è un amico, a me mi dispiace, lo sentivo, perché ci conosciamo in frequenza da oltre 40 anni, oltre 45 anni, però questa è una cosa che mi dà fastidio, veramente, guarda, mi dà fastidio, ma non lui, personalmente, come uomo, mi dà fastidio il fatto che non riesco a sentire al baracchino, ecco quello che intendo dire io, non voglio che nessuno fraintenda quello che sto dicendo, non so se riesco a spiegarmi bene, chiaramente, tutto lì. Vai Gianni. Già ci metterà a posto. Tanto non ci vuole un capo, deve mettere un pezzo di tubo e basta, non è che deve fare chissà cosa. L'antenna ce l'ha già, deve mettere un tubo, magari ci mette qualche tirante per tenerlo. Tutto lì, non è che sia questo grande lavoro che deve fare. Comunque anche a me mi hanno sentito a Urbi, a Claudio. Quindi qualche volta anche io arrivo lontano. No, non ha niente a che fare, Urbia con Oristano è la zona del centro-sud, Gianni. Urbia è una piana e si arriva, anch'io arrivo a Urbia. Domenico ci ho parlato quando c'erano altri camionisti. Non è un problema Olbia, non è un problema, non guardare la distanza. Oristano e le altre zone lì, insomma, anche a Macomer non arrivi tu, ma sono convinto al 100%. È molto più difficile arrivare in quella zona lì. È molto più difficile. E tu dico sai perché? Perché avete tutti già difficoltà da dentro Sassari, e questa è una cosa normale perché si sa, io lo vedo, già quando c'è qualcuno dietro le gallerie, ok?